Thank you.

E siamo rientrati in diretta per coloro che si fossero messi in ascolto di Radio Città del Capo solo adesso. È ripresa la trasmissione 451 Frammenti Sonori. Abbiamo già sviluppato la nostra prima parte di puntata di stasera dalle 11.35 circa fino a mezzanotte e mezza. Poi è partito chiaramente il radiogiornale di Radio Popolare Network. Adesso siamo ripartiti. 451 Frammenti Sonori sta sviluppando stasera questo percorso sonoro che abbiamo voluto denominare Free Electronics, dunque tutto ciò che attraversa il mondo dell'elettronica in termini non solo di improvvisazione ma proprio di libertà, di aspetto free e dunque di tutte le sperimentazioni e liberazioni, potremmo dire, nell'ambito dell'elettronica. Abbiamo fatto la prima parte sviluppata attraverso questo percorso, abbiamo aperto con Nate Young per poi passare al grande maestro, mostro sacro Morton Subotnick, per poi attraversare Panicsville e arrivare a Floris Van Hoof, che ha chiuso la prima parte della trasmissione. Abbiamo riaperto invece la seconda parte con un grande musicista, anche se chiaramente in termini di produzioni musicali è considerato un minore, anche perché gran parte della sua esperienza e carriera musicale si è sviluppata soprattutto come strumentista, ma negli ultimi, diciamo, 20 anni ha cominciato a far uscire dei propri album, e in particolare questo album che è splendido. Parliamo di Don Preston, tastierista che ha vissuto per anni a Detroit ed è stato musicista e componente di una formazione importante come quella di Charlie Haden, per poi aver collaborato anche tra gli anni 60 e 70 con grandi musicisti, in particolar modo con Frank Zappa dal 67 al 74. In questo senso l'aspetto del free rock zappiano rientra nell'idea di stasera di Free Electronics. E oltre a aver lavorato e aver fatto tournée varie con Gil Evans, Bol Nadelger, ma In particolare, la cosa che ci ha colpito è questo lavoro splendido che è stato realizzato proprio nel 2012, ma che recupera dei materiali inediti di Preston come compositore solista e manipolatore, esploratore dei meandri più oscuri e fantastici della musica elettronica, delle strumentazioni elettroniche. Un lavoro appunto uscito nel 2012 che è intitolato Filters, Oscillators and Envelopements dal 1967-82. Infatti anche questi termini sono oscillatori, filtri, manipolatori, sono proprio per chi fa musica elettronica. E Don Preston ha fatto appunto tutti questi splendidi componimenti rimanendo praticamente oscuri, inediti. E il lavoro splendido, che non è oltretutto la prima volta che lo eseguono quelli della Sabrosa, etichetta di belga estremamente importante soprattutto nel recupero di materiali sonori inediti e dispersi o sconosciuti, che ha appunto recuperato questi materiali, e abbiamo proprio ascoltato in apertura della seconda parte della trasmissione questo brano splendido, assolutamente. L'altro chiamato Electronic Music, deve essere una sorta di improvvisazione. Un'improvvisazione dello stesso Don Preston del 1967, quando praticamente iniziava a lavorare in tour e nei lavori con Frank Zappa, e aveva appena smesso di lavorare con Charlie Eden. Dunque un passaggio molto importante, e soprattutto colpisce il fatto che era estremamente avanzato per il 67. Certi scratch, certi lavori che si sentiva nel brano riecheggiavano quasi tutte le sperimentazioni black dei primi anni 80, delle prime sperimentazioni elettro e delle prime manipolazioni dei dischi e dei vinile già operate negli anni 70, ma che si sono poi sviluppate e affermate nei primi anni 80. Ed è impressionante appunto andare a scovare questo brano e ascoltarlo e andare appunto a scoprire che è del 1967. Non è il primo e né sarà l'ultimo caso di queste vere e proprie avanguardie musicali. Le abbiamo già scovate in passato. Mi viene in mente in maniera abbastanza strana Gil Scott-Heron per tutte le sperimentazioni sulla word e sullo speak and word degli anni 70, ad anticipare l'hip hop e il rap degli anni 80. Ce ne sono ancora tanti, potremmo stare qua veramente a fare notte, ma Don Preston appunto è assolutamente un autore da riscoprire, soprattutto per queste sperimentazioni. Noi l'abbiamo appunto ritrovato attraverso questo splendido lavoro uscito ancora, ricordiamo, per la Sabrosa. Il disco è Filters, Oscillators and Envelopes 1967-82. E passando invece, come dire, a figliocci forse fortuiti, non si sa quanto, di Don Preston e di appunto sperimentatori precursori in nuce di quello che poi sarà insomma l'elettronica degli anni 90, soprattutto come diretta insomma influenza, ovvero con Russell Oswell si va dentro al mondo digitale, perlomeno in un primissimo periodo come Jazzcom, progetto parallelo soprattutto famoso per i due degli Autechre, ma appunto c'era anche un giovanissimo Russell Oswell, e tra l'altro progetto che non è ancora chiuso, quindi potrebbe anche fare uscire insomma altre peripezie sonore, insomma un mondo decisamente interessante quello di Jazzcom, parallelo appunto all'affiliazione madre di Autechre. In questo senso insomma Russell Oswell parte da quella digitalizzazione anche molto spinta da parte dei due Autechre, anche portata dentro Jazzcom, seppur una chiave più noise, però poi Russell Oswell si sposta verso quello che il noise più diretto, Satan's Tornado, è uno splendido progetto insieme a Merzbow, Masami Akita, quindi il re del rumore. Lavora con Ecker, che della digitalizzazione estrema fa un suo credo e anche un suo piuttosto viaggio sonoro molto anche interessante. E anche con Sensor Round Orchestra, insomma, riprendendo anche un poco di linguaggio vintage, lavora su una sorta di orchestrazione generale, tra l'altro presente anche in questo maxi progetto lo stesso Home Herzbow. E Russell Lowswell sviluppa quindi quello che è un percorso che parte dal digitale per arrivare a un analogico anche piuttosto furioso, anche piuttosto manipolato in questo Factual disco uscito poche settimane fa. Lavora su quello che è un dei suoni probabilmente più conosciuti, perlomeno questo è l'impressione che abbiamo avuto, ovvero i fuochi d'artificio. Sì, viene in testa quello. Sì, viene all'orecchio appunto gli scoppi dei fuochi d'artificio manipolati poi in maniera piuttosto egregia da Russell Lowswell, e poi con dimensioni appunto noise che non vengono mai sottratte al lavoro di Russell Lowswell, ostinato sempre nel rivendicare appunto la sua ricerca sul noise e a volte anche sull'ultra noise. come un approccio concretista poi si possa fondere con un approccio ritmico decisamente interessante, qua invece l'esplosione invece è completamente noise. E Russell Oswell, proprio il lavoro tra l'altro molto ben presente in questo Factual del 2012, il lavoro di ricerca sull'elettronica si fonde proprio su questa libertà di trattare il noise come materia principale, ma in una chiave insomma anche insolita, appunto partendo da un aspetto concretista come appunto quello di un fuoco d'artificio o comunque quello che può essere un artificio sonoro. Non sappiamo se si tratta di fuoco, ma probabilmente sì, e poi appunto trasformarlo in una ritmicità anche piuttosto originale, piuttosto inedita, e sempre appunto riuscendo poi a commissionare questo noise, che a questo punto si fa più sottile negli ultimi lavori di Russell Oswell, e ci porta appunto a un modo piuttosto libero, free electronic, appunto di trattare la matrice sonora, poi che appunto, come dicevamo prima, parte dal digitale e adesso sta diventando sempre più analogica, e quindi insomma anche questa dialettica chiaramente trasforma la stessa materia musicale trattata dal giovane, non più giovanissimo, Russell Oswell. Eh sì, effettivamente un pezzo, un brano che dà una connotazione importante di apertura agli autori che adesso andremo a presentare, al cofanetto poi in realtà che è collegato ai prossimi autori. Parliamo di un progetto assolutamente splendido e importante dal punto di vista musicale, che è stato realizzato nel 2001, ormai più di 10 anni fa, ma che continua a mantenere un'attualità, un'importanza assolutamente decisiva sulla scena dell'elettronica sperimentale, dell'improvvisazione anche radicale, perché l'intero cofanetto è dedicato ad autori giapponesi che appunto portano avanti il discorso improvvisativo in tutte le sue forme, dunque sia nell'aspetto elettroacustico, elettronico, acustico in alcuni casi, e dunque un cofanetto importantissimo per conoscere ovviamente la scena sperimentale giapponese. Si tratta del cofanetto composto da ben 10 CD, Improvisated Music from Japan, anche abbastanza difficile e abbastanza raro, e abbiamo la possibilità di estrapolare due brani selezionati su 2 CD, anche perché sennò facevamo l'intera trasmissione pure di più sul cofanetto, pure di più di una, di due, di tre. Infatti, con autori indiscutibilmente importanti, alcuni molto molto conosciuti, perché insomma dai Ground Zero, che sono una formazione importante, più che conosciuta sul terreno giapponese, non solo, perché sono anche usciti parecchio fuori dai canoni orientali, e autori anche come Otomo Yoshihide, che è abbastanza conosciuto anche per aver fatto delle composizioni piuttosto divertenti e assurde, anche legate ai cartoni animati, all'animazione. Dunque molti autori, alcuni meno conosciuti, che però hanno lavorato in progettualità, in musiche importanti. Appunto Otomo Yoshihide, ma anche autori come Keiji Aino e tanti altri. Oltretutto Keiji Aino l'abbiamo inserito poche trasmissioni fa. Sì, no? Per ben 2 volte tra vari progetti. Sì. Ecco, poi si collega ovviamente alla trasmissione che facemmo un po' di tempo fa, legata proprio all'Experimental Music from Japan, dedicata a molti autori giapponesi. Qua ci spostiamo sul terreno più prettamente elettronico, selezionando 2 autori. Il primo è tratto dal 4° CD ed è Atsuhiro Ito, che è componente anche di una formazione che conosciamo perché è stato inserito in un'altra trasmissione dedicata appunto all'intorno a rumori, intorno a rumori orchestra, ma anche formazione come i My Kazatu Trio. È un autore che lavora sull'improvvisazione elettronica ed è anche un costruttore di congegni e aggeggi abbastanza strani, luminescenti. C'è una foto molto bella sul sito appunto, dove c'è una sorta di tastiera elettronica completamente luminosa, sembra appunto uno strumento di fantascienza, di qualche film di fantascienza, ed è una foto dal vivo oltretutto. E abbiamo appunto selezionato un brano di questo autore, in più abbiamo successivamente, li metteremo ovviamente insieme, ascolteremo anche l'altro autore, Yasuhiro Yoshigashi, dal primo CD, Improvisated Music from Japan. までの成果をこう広く公表してですね、 so just denying everything I said. grande, grande brano e splendida anche questo flusso giapponese nel delirio. Abbiamo sentito anche questa tromba che echeggiava praticamente in sottofondo, ma poi neanche tanto in secondo piano, perché poi nella parte finale emerge quasi totalmente dentro questo flusso elettronico di aggrovigliamenti e sperimentazioni assurdiste da parte di, in questo caso, l'altro autore che avevamo già annunciato, Yashiro Yoshigaki, che è sempre una bella impresa non sbagliare qualche lettera quando si guarda i termini giapponesi, anche se poi in realtà ci sono delle lingue molto più complicate. Sì, nella traduzione, poi, sì, il giapponese non è neanche più complesso, un po' ovviamente, sì, ovviamente quando viene tradotto in caratteri occidentali, perché nel carattere originale ti voglio vedere. Ecco, e abbiamo mixato i due autori che avevamo appunto precedentemente annunciato. Siamo partiti con il lavoro in apertura dell'autore Atsuhiro Ito, e poi siamo passati mixandolo con Yasuhiro Yoshigaki, musicista invece quest'ultimo, meno più conosciuto e con un'esperienza sicuramente maggiore di Atsuhiro Ito, che è un autore che è emerso come musicista e compositore negli ultimi 10-12 anni, mentre per quanto riguarda Yasuhiro Yoshigaki è un autore invece che ha una storia piuttosto lunga, anche se comunque giovane, perché non è certamente un vecchierello, ma ha già superato i 50 abbondantemente. Musicista che ha lavorato con moltissimi progetti importanti, dagli Alter States a progetti importantissimi come Gran Zero, l'Otomo Yoshihide New Jazz Ensemble e tantissimi altri che non stiamo qua a citare. Strumentista, batterista e percussionista, che però poi si è anche dilettato, diciamo così, a sperimentare sul piano elettronico, e l'ultimo brano appunto si sente comunque chiaramente questo interessantissima e credo anche unica commistione così profonda fra due linguaggi che possono sembrare molto distanti e differenti, cioè il jazz elettroacustico e l'elettronica. In realtà i giapponesi non è che siano stati gli unici, perché autori in giro per il mondo ce ne sono stati che hanno sperimentato i due linguaggi e hanno dialettizzato i due linguaggi, però nel modo in cui hanno lavorato i giapponesi su questa forma quasi di sintesi o comunque di ottenimento di un linguaggio completamente nuovo, dunque non un abbinamento distaccato e distante fra due linguaggi, come purtroppo io lo dico, anche se solleverò qualche polemica, chissà quanti ci ascoltano, ma non si sa mai, fra nell'ambito dei jazzisti italiani che spesso sperimentano sul piano dell'elettronica, ma appunto con linguaggi che rimangono separati, distanti e quasi sordi uno con l'altro. Ecco, i giapponesi riescono perfettamente a trovare appunto questo nuovo linguaggio nell'incrocio tra esperienze jazzistiche o comunque elettroacustiche e anche improvvisative sul piano elettroacustico e l'aspetto elettronico, costruendo un linguaggio assolutamente nuovo, e lo si è sentito in particolar modo proprio in questo brano di Yasuhiro Yoshigaki. E parlando insomma di quelle che furono insomma le avanguardie sonore e quindi quell'incrocio incredibile che si ebbe alla fine degli anni 60, primi anni 70, infatti come dire, dentro appunto la presentazione di Eliseo c'era questo riferimento soprattutto a chi in quegli anni lì sperimentò con questa sintesi e riuscì appunto a approdare un linguaggio sintetico decisamente interessante. Ci fu una particolare attenzione di Don Cherry a questi lavori di elettronica, Human Music, che è un gioiello in questo senso, fatto con John Appleton, è sicuramente uno dei riferimenti, ma tra l'altro Don Cherry varie volte si è imbattuto proprio in quei periodi con le elettroniche, pensando insomma al grande Sarraba, pensando a certi lavori di Paul Bley con la Moog, vari insomma jazzisti si sono precipitati anche a cercare una dialettica e appunto a sintetizzare un suono che difficilmente veniva insomma considerato come simpatico, come qualcosa che potesse appunto avvicinarsi. In realtà appunto sono usciti dei veri e propri gioielli, questo Human Music della Flying Dutchman, Dutchman tra l'altro etichetta molto legata a G. Scott Heron, prima lo citavamo insomma come precursore di un certo hip hop, di una certa anche appiglio world che dentro poi Don Cherry è fortissimo, se non si trattava di elettronica tra la fine degli anni 60 e primi 70, si trattava di andare a trovare sonorità fuori anche dal mondo, partendo dal mondo esotico, orientale o africano, si andava verso mondi sonori molto immaginifici, in questo senso insomma anche il grande Sarra fu protagonista in quegli anni di excursus sonori assolutamente fantastici. John Appleton viene fuori da quel laboratorio che abbiamo trovato dentro ad esempio Morton Subotnick, che abbiamo ascoltato prima nella prima parte appunto con The Wild Ball, e lavorato con Davidovsky, con Vladimir Ussacevsky, quindi primi linguaggi nel vero senso della parola sintetici, visto che erano dei primi lavori alla Computer Music. In questo caso insomma un incontro incredibile tra due personaggi che sembrerebbero o all'epoca sembravano veramente distanti, in realtà ne esce veramente un gioiello, perché forse questa distanza poi in realtà si colma tranquillamente attraverso la ricerca sonora e la voglia di appunto approdare, di avventurarsi in maniera musicale verso nuovi territori. John Appleton e quindi Don Cherry con Human Music. Thank you. Bene, abbiamo ascoltato Don Cherry insieme a John Appleton, Human Music 1970, lavoro decisamente eccezionale per due artisti che, come dicevamo, all'apparenza molto distanti, ma stasera ci stiamo divertendo dentro queste Free Electronics a trovare mondi disparati e non disperati, anzi tutt'altro, molto speranzosi per quanto riguarda appunto sintesi sonore. E da Don Cherry a John Appleton, quindi un pezzo di storia della musica, della storia della musica di ricerca, sperimentale, tra l'altro prima abbiamo trattato anche Morto Subotnik e Don Preston. Passiamo invece a una formazione molto molto giovane, Perry Spirit, ne sappiamo veramente poco. Veramente poco, anche perché sono veramente autori molto giovani, roba proprio roba fresca. roba fresca fresca, sì. E vicina. Vabbè, comunque hanno iniziato praticamente nel 2009, dunque da 2-3 anni che sono in circolazione. Non stimolare il mio delirio che parte sempre intorno alle 2 di notte. Sì, siamo proprio puntuali. Siamo puntuali sul delirio intorno alle 2. Comunque hanno aperto con il primo disco uscito per la Razors and Medicine Forced Joyous Test, che in realtà era una cassetta, era un'autoproduzione, doppia cassetta, bisogna dire, anche questo è interessante. Poi è uscito invece il primo LP, che è uscito proprio insieme a Brendan Murray, Entitled, sempre per la Razors, del 2010, e il disco in questione, che adesso andremo proprio a proporre, uscito nel 2012, proprio qualche mese fa, per la Digitalist Recordings, Spiritual Church Movement. Sì, perché il titolo, insomma, il titolo con una colonna. Ma siamo in tema, no? Di chiesa, adesso col Papa che si è dimesso, vai tu al posto suo. No, ma mi dimetto anch'io. Ti dimetti anche tu da essere sociale, da me stesso. Antisociale. Da te stesso, da me stesso, da Max Macchi, vai fuori, vado fuori di me. Di te. Ma forse quando siamo fuori di noi è proprio lì dove non ci siamo che ci siamo. Certo, partiamo. Meglio, spirit, forse, certo, per i spirit. Thank you. Thank you. fino all'ultima battuta questa assurdità di Andy Ortman. Prima abbiamo sentito Perry Spirit e l'abbiamo appunto mischiati. Perry Spirit faceva un lavoro veramente notevolissimo, tra l'altro giovani come dicevamo prima, ma già dentro il mirino di John Zorn. Tra l'altro pochi giorni fa si sono espressi dal vivo al locale di Zorn, il The Stone a New York, quindi sì. Insomma, stanno anche, come dire, dentro immediatamente, visto che insomma è da pochissimo che stampano, sono piuttosto giovani, perlomeno è giovane la progettualità di Perry Spirit, sono già dentro insomma un giro decisamente insomma importante, e quindi probabilmente insomma si faranno sentire, come tra l'altro nel pezzo che abbiamo sentito, da questo Spiritual Church Movement. Veramente si sentiva di tutto, da flatti di musica cosmica, momenti rumoristi e concretismi anche piuttosto divertiti, anche quando ad esempio vanno sul noise, e soprattutto questo cambio, questo free, questa possibilità data appunto alla liberazione anche delle strutture sonore, della struttura compositiva, che rende insomma la musica di Perry Spirit decisamente interessante, come d'altronde insomma sì, Andy Ortman che chiuso, abbiamo prima sentito, tra l'altro, con Panicsville. Sì, infatti era componente del gruppo Panicsville che abbiamo inserito nella prima parte della puntata, e abbiamo ascoltato invece proprio in chiusura della puntata il lavoro solistico uscito per la PAN, etichetta poi assolutamente fondante la per la musica sperimentale, uscito nel 2008, Provocative Electronics, splendido lavoro dove appunto porta avanti le sue peripezie elettroniche, i suoi deliri e i suoi momenti anche di liberazione, Andy Ortman. E con Andy Ortman abbiamo Norma, sì, quella è Norma. Abbiamo chiuso, abbiamo sforato, non gliela famo più, insomma. Non gliela famo più, siamo un po' stanchi, poi ci sono tante cose, insomma. Sei preoccupato? Ma non c'è da preoccuparsi. È tutto da ridere. Bisogna prendere tutto a ridere, che è meglio. No, è proprio da ridere. Basta. Senza porsi la questione, insomma. Va bene, dai. Ridiamo allora, dai. Però ridi, scusa. Ecco, vedi che sei bravo. Vabbè. Un saluto allora, una buona nottata con i programmi. Vari programmi. Attenzione ai programmi. Attenzione ai programmi, soprattutto quelli elettorali. Allora, buonanotte ovviamente, insomma noi andiamo a dormire, siamo tranquilli. Sì, beh certo, tra 3-4 ore andiamo anche a dormire. Buonanotte, caro. Ciao.